La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Nel nostro spazio bisettimanale dedicato alla scuola, oggi parliamo di inclusione scolastica. Lo facciamo con la voce di un'esperta, la professoressa Rinalda Montani, docente di pedagogia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, nonché presidente del Comitato Provinciale di Padova dell'UNICEF. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora, partiamo dalla definizione. Inclusione scolastica, cosa intendiamo? Ecco, io sono contenta di questa sua domanda, le risponderò con precisione fra un attimo, perché questo tema mi consente di ricordare il decennale di un documento internazionale molto importante ma poco conosciuto, che è la Convenzione sui diritti delle persone disabili. Proprio in questo documento troviamo ben specificato anche il termine di inclusione collegato con il valore sociale che adesso appartiene. Che senso ha ricordare questa convenzione? Venendo allo specifico della domanda che lei mi ha fatto, io inviterei a ricordare, per quanto riguarda la nostra scuola, tre parole che incominciano per I: inserimento, integrazione e inclusione. Se parliamo di inserimento, noi ritorniamo agli anni 70, quando con la legge 517 è stato riconosciuto il diritto dei bambini con deficit di frequentare la scuola di tutti, e questa è la prima grande conquista. Poi si è visto che la scuola, si va a scuola per imparare, e quindi non era più solo una questione di socializzazione ma di integrazione. A scuola si impara per quel che si può e la scuola deve organizzarsi di conseguenza. La prospettiva diciamo inclusiva invece vede l'inclusione come un processo che problematizza gli aspetti della vita sociale. La consideriamo come un'accoglienza di ogni persona nella nostra scuola e anche sociale, non condizionata dalla disponibilità di una maggioranza a integrare una minoranza, ma questo scaturisce dal riconoscimento della comune diversità. Il fatto che la diversità non si identifica solamente con la disabilità, ma fa parte della situazione umana. La scuola inclusiva è quella fondata sulle differenze e sull'equità. Dico equità nel senso che vanno aiutati, affiancati gli alunni che hanno bisogno di aiuti particolari, ma non diciamo segreganti, ma che possano essere vissuti all'interno del gruppo classe. Uno degli elementi importanti del giorno d'oggi è che i migliori alleati, diciamo, degli insegnanti e degli insegnanti di sostegno sono proprio gli alunni, i pari. E questo si basa sulla fiducia e sulla reciprocità. Non c'è inclusione se non c'è reciprocità. Quindi l'inclusione scolastica è una crescita illimitata, diciamo. Illimitata vuol dire finché uno può arrivare, fin dove un bambino, un ragazzo può arrivare per quanto riguarda gli apprendimenti, ed è fondamentale la partecipazione. Si può dire che inclusione, usando con un termine comune nel nostro dialetto, equivale a tutti quanti, cioè tutte quante le persone, tornando all'ambito scolastico, gli alunni, gli studenti, che partecipano all'apprendimento in quel contesto classe, tutti quanti, non uno di meno, ciascuno con la sua storia e con la sua personalità. Attualmente una delle difficoltà che si incontrano di più sono le classi numerose. Non si può avere un insegnante di sostegno per ogni alunno in situazione di disabilità, questo sarebbe utopico, ma questi bisogni che emergono degli alunni e delle loro famiglie vanno accolti, vanno rispettati e soprattutto è importante parlarne, cercare di capirsi. La comunicazione non va improvvisata per questi temi, si bisogna essere preparati, competenti e possibilmente cercare una possibile collaborazione che si fondi però sulla fiducia. Se ci si vive come controparte è molto faticoso sia per gli adulti che per i ragazzi. Allora è una questione di cambio di sguardo. Io dico sempre: cambia lo sguardo, guarda che scambio. Ognuno di noi, se facesse la propria piccola parte, a partire dall'accoglienza, con uno sguardo inclusivo di accoglienza, accettazione, ma riconoscimento della dignità che ognuno di noi ha in quanto diverso. Credo che riusciremo a fare qualche passo in più, ma anche per il benessere della nostra società, insomma, e soprattutto anche nella scuola, visto il tema. Ringraziamo la professoressa Rinalda Montani, docente di pedagogia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova. L'appuntamento con la scuola che si racconta è fra 15 giorni. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.